stipendiati, dei tre primi borsisti che l'Istituto di Scienze Religiose ha avuto e che cui due hanno già presentato in questa medesima sede il loro lavoro a stampa, ero prima il professor Zucal sulla morte in Karl Rahner, l'abbiamo tenuto veramente al Bernardo Clesio in quell'occasione con la presenza di Rahner stesso, la seconda con Nicoletti in questa sede su Kierkegaard e qui ormai abbiamo ora il terzo dei borsisti che nel 1982 l'Istituto ha prescelto, ovvero in base a concorso, il dottor Giuseppe Zorzi, che abbiamo oggi con noi, anche che possiamo vedere deviso, perché in certo qual modo è stato fisicamente meno presente degli altri, in quanto per i suoi studi si è trattenuto in gran parte nella sede universitaria di Tubinga, dove tuttora soggiorna. Dottor Zorzi è laureato a Bologna col presente lavoro su LIBOR, che ha presentato al concorso per la borsa di studio nell'82 unitamente al programma di lavoro che appunto giustificava l'ulteriore aspirazione. La mia impressione è stata fino dalla prima lettura di questo lavoro su Reinhold Niebuhr, che confesso, io per primo credo che ogni studioso può confessare anche le sue zone d'ombra e le sue ignoranze. Io non conoscevo fino a quel giorno, conoscevo un altro Niebuhr, vero, ma non conoscevo questo. E, ecco, mi ha attratto il lavoro ancora manoscritto del nostro dottor Zorzi per la nitidezza con cui è presentato, per la chiarezza simpatica con cui il pensiero di un autore, per me così lontano, viene fuori e si presenta in modo convincente e chiaro. Impressione che ho subito confrontato anche con qualcun altro, come col padre Walter Kern, membro del nostro comitato scientifico, e che mi è stata riconfermata dunque anche dall'altro fronte linguistico e che ho l'impressione si riconferma anche nel libro a stampa che tutti possiamo vedere. Ho un grande rispetto io per chi sa dire le cose difficili con un linguaggio chiaro e nitido in tutti i settori, ma soprattutto in quello della teologia, che non deve essere doppiamente misteriosa ma deve essere piuttosto apofatica e fatta per comunicare con chiarezza i contenuti. Ecco, e il lavoro è stato poi rielaborato fino al giorno in cui abbiamo avuto la gioia di vederlo stampato. Posso anche ricordare che nel frattempo, qualche mese fa, è uscito di questo libro un riassunto molto ampio che è stato accettato e pubblicato dalla Zeit für Katholische Theologie, la rivista della Università della Facoltà Teologica di Innsbruck, che lo ha accettato ben volentieri. Beh, non mi diffondo ulteriormente sull'ulteriore piano di studio, che è anche molto interessante da parte del dottor Zorzi, su Friedrich von Hügel e uno studio approfondito del modernismo da individuare nella sua peculiarità e proprio nei rapporti di von Hügel con il mondo italiano, con Semeria in modo particolare. Ecco, ricordo tuttavia che questo secondo lavoro in modo speciale viene condotto tuttora avanti con l'aiuto e la supervisione del professor Seckler di Tübingen, che caso molto raro, perché la prima volta che mi parlarono di Seckler mi fu presentato piuttosto come un uomo difficile da avvicinare e insomma anche un padrone molto rigoroso con coloro che vogliono lavorare con lui, e ho capito invece con quale senso di stima e di amicizia vero sta seguendo tuttora il lavoro del nostro dottor Zorzi. Ecco, questo forse può bastare per una breve presentazione in questo momento da parte mia. Una parola ulteriore devo dire, anzi forse non sapevo da che parte incominciare, se dal più grande o dal più piccolo, visto che, come dicevamo venendo qui per parlare di Raymond Niebuhr, bisogna aver passato il 1,80 m come statura, vero? Cioè il relatore di questa giornata che ha accettato veramente volentieri la nostra preghiera di avere qualcuno che in certo qual modo si fa patrocinatore, patrocina questa serata, cioè il professor Massimo Ruboli, che noi abbiamo trovato dai bollettini bibliografici come uno dei pochissimi che nel mondo italiano si è occupato di questo teologo americano, e si è occupato, come ho potuto vedere, in un modo veramente egregio e significativo. È modenese di nascita, il professor Ruboli, ha fatto i suoi studi universitari a Bologna in parte e poi in Canada, a Vancouver per l'altra parte, e ha mantenuto da allora un contatto continuo con la cultura americana, in particolare con la cultura filosofica e con la cultura filosofico-religiosa, che si occupa di questioni religiose. Oggi è docente all'Università di Firenze e segue in particolare appunto la storia della cultura americana. Ha varie pubblicazioni sul ruolo della religione nella filosofia, e quello che per noi è stato l'occasione, l'amo, il rampino che ci ha condotti a lui per attrarcelo per questa serata, è un saggio sulla teologia, una teologia per la prassi, autobiografia intellettuale, con testi di Raymond Niebuhr e una bella e ampia presentazione dell'autore. Gli siamo dunque particolarmente grati per la sua presenza in mezzo a noi in questa serata, e gli passerò presto per primo la parola. Prima però devo ancora ricordare l'adesione del presidente della provincia Mengoni, che ha mandato mediante un telegramma, e del professor Disertori, che mi ha scritto una ampia lettera per questa occasione. Ma prima di dare la parola ai due relatori, credo che convenga che approfittiamo dell'occasione purtroppo rara di avere in questa occasione in mezzo a noi il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, che, come tutti voi sapete, è stato il creatore, l'ideatore, il promotore dell'Istituto di Scienze Religiose, e tuttora ne è il padre nutrizio, no? Che lo sorregge e lo... No, parlo dell'Istituto Trentino di Cultura, il senatore Kessler, al quale in realtà l'Istituto deve la sua origine, l'Istituto di Scienze Religiose, perché, come voi tutti sapete, non è partita l'idea dalla diocesi o dalla comunità ecclesiale, ma ciò che fa più onore all'Istituto e alla nostra comunità è che la comunità civile, tramite l'Istituto Trentino di Cultura, ha sentito la necessità di promuovere la costituzione di un istituto di scienze religiose che affianca, segue e sostiene veramente con interesse e con polso fino ai nostri giorni. Ecco, se il senatore Kessler, anche in vista del fatto che è recentissimamente riconfermato nella sua posizione di presidente dell'ITC, ecco, vuol dire una parola di saluto, noi siamo a disposizione. Non voglio togliere nulla alla serietà di questa riunione di questa sera, tanto più che sono largamente sotto il 1,80 m e quindi non ho... Per esprimere innanzitutto il ringraziamento per voi che siete venuti, il ringraziamento vivo al professor Ruboli, che è venuto fin qui per questa nostra importante, per noi una manifestazione importante, e per esprimere anche così la lietezza dell'Istituto Trentino di Cultura per la conclusione di un lavoro che non è solo un libro, che questa sera comunque abbiamo qui e che vi viene presentato. Naturalmente i complimenti anche all'autore, perché bisogna farlo. Io non sono in grado di esprimere un giudizio, e naturalmente lo esprimete voi. ma il fatto solo che si sia riusciti a questo risultato, congiunto ai risultati che già sono stati ottenuti in questa direzione, è motivo di soddisfazione e anche di conforto, vorrei dire, per l'Istituto Trentino di Cultura e dico per la comunità trentina che investe, che ha investito, che investe in questa attività. Perché, come ricordava bene Monsignor Ruggier, accanto agli altri settori di ricerca che qualche volta sono in certi ambienti almeno più noti, come la ricerca scientifica e tecnologica o la ricerca storica, appunto non a caso evidentemente a suo tempo abbiamo inserito anche un istituto di scienze religiose per la ricerca su questo fronte, che nel nostro paese purtroppo non trova larghe posizioni per potersi sviluppare. E la soddisfazione più grande è proprio quella di vedere che anche in questo particolare settore, forse addirittura prima che in altri settori di studi che stiamo sviluppando, ecco, vediamo crescere, questo è l'importante, vediamo venire fuori qualcosa di nuovo, vediamo venire su giovani che si sono dedicati con estrema serietà a studi rigorosi, dopo essere stati selezionati in maniera precisa, con criteri che nessuno naturalmente può criticare, e sotto la guida appunto dei tutor che avete, vi sono stati assegnati anche all'estero, avete fatto il vostro percorso rigoroso, e direi che queste qui sono, non tanto per noi che non facciamo giudizi, ripeto, dal punto di vista scientifico, ma che sono i risultati e le prove verificabili di quello che si fa. Ecco, queste sono le ragioni di soddisfazione, e un augurio, ed ho finito, un augurio ultimo, che anche quanto ha deciso recentemente il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, recentemente insediato, che ha previsto anche per l'Istituto di Scienze Religiose un ulteriore potenziamento dell'attività, ed ha anche constatato, anche il consiglio d'amministrazione, ha anche constatato come anche le attività pubbliche, oltre a queste più specifiche, più alte, credo si possa dire, le manifestazioni che vengono fatte, che sono state fatte dall'Istituto di Scienze Religiose, sono quelle che hanno trovato, come dire, evidentemente c'è un terreno molto fertile, forse più fertile di quanto si potesse supporre, hanno trovato una rispondenza all'interno della comunità trentina, forse anche più diffusa di quanto, ripeto, non sia successo o avvenuto finora per altre attività. L'augurio è appunto quello che queste attività e questo lavoro e questo studio obiettivamente servano nella nostra comunità, soprattutto per i giovani. Ho l'impressione, non lo so, che questo qui ci sia qualcosa di specifico anche per i politici, quindi devo augurare anche a me, naturalmente, che serva un pochino a tutti. Ecco, e concludo con un ringraziamento vivissimo anche al professor Roger, che dirige, sapete con quanta energia e con quanta serietà questo istituto, congiuntamente anche agli altri scienziati che compongono il comitato scientifico dell'Istituto di Scienze Religiose e che naturalmente offrono questa loro preziosa e preziosissima attività. Auguriamoci anche che nei tempi nuovi, anche quelli che verranno e che faranno seguito al concilio, al concordato, dopo il concilio Vaticano, anche al concordato, speriamo che anche in Italia qualche cenno forse si sente, che anche in Italia si riprenda o si cominci quantomeno a pensare di riprendere e ridare spazio agli studi teologici, convinti finalmente che non è neanche pensabile che un paese anche della cultura come è il nostro paese continui a vivere in questa specie di disgiunzione tra le culture eccetera, che appunto penalizza naturalmente la cultura teologica, della quale io credo di poter dire che c'è oggi avvertita sete anche proprio nelle generazioni di fronte a tutti i fenomeni che lamentiamo tutti insieme, cristianizzazione e secolarizzazione eccetera, però pare di avvertire una sete su questi fronti che sarebbe delittuoso, ripeto, anche come enti pubblici non fare quanto oggi probabilmente è possibile fare, piuttosto che quello che ieri era molto più difficile fare. Auguri e grazie. Allora do subito la parola al professor Massimo Ruboli, che ci parla su fede e politica, l'esperienza di Raimond Nigori. Voglio innanzitutto ringraziare il professor Roger per l'invito che mi è stato rivolto. Sono venuto a Trento molto volentieri, ho potuto vedere oggi un po' della biblioteca dell'istituto e del lavoro che si svolge qui, e ho visto tutto questo con molto piacere, perché devo dire che in Italia non sono molti i centri che svolgono questa attività e soprattutto che lo fanno in modo così serio. Un'altra parola devo dire sul libro di Giuseppe Zorzi, senza fare un complimento all'autore, devo dire che il libro mi è piaciuto, altrimenti non sarei venuto. Onestamente, se non trovo un libro soddisfacente, preferisco non andare a presentarlo, per non dire che è un bel libro se non lo è. Questo libro che mi sono trovato tra le mani qualche tempo fa, l'avevo preso in mano, devo dire, con un po' di sospetto, perché quando in Italia ci si occupa di cose americane, di cultura americana in particolare, e in particolare di cultura religiosa americana, lo si fa spesso con pressapochismo e molto spesso purtroppo con ignoranza. Io per il lavoro che svolgo ho vissuto abbastanza a lungo negli Stati Uniti e in Canada, e mi sono fatto un po' di esperienza e informazione su queste cose. Devo dire che spesso quando leggo articoli sui nostri giornali o vedo libri resto un pochino perplesso, diciamo. Quindi avevo preso in mano questo libro con un po' di sospetto e diffidenza. Sospetto e diffidenza che poi sono scomparsi via via che la lettura andava avanti, e mi sembra che il lavoro sia un lavoro veramente eccellente, perché non era facile presentare al pubblico italiano, in un volume non troppo ampio, un autore così difficile come Reinhold Niebuhr, e soprattutto un autore proveniente da una situazione così diversa come quella degli Stati Uniti, che noi pensiamo di conoscere, ma in realtà spesso ne abbiamo soltanto un'immagine deformata dai film, dalla pubblicità, come d'altra parte è spesso deformata l'immagine dell'Italia e della cultura italiana negli Stati Uniti. Quindi devo dire che veramente sono contento che questo libro sia uscito e che ci sia la possibilità per il pubblico italiano di avere un'informazione così chiara e precisa su questo autore. Quest'autore purtroppo non è stato molto conosciuto in Italia fino ad ora, nonostante che la sua importanza nella cultura nordamericana sia stata enorme. Reinhold Niebuhr nasce negli Stati Uniti nel 1892 in un piccolo paese del Missouri, in una zona occupata prevalentemente da immigrati tedeschi. La famiglia era tedesca. Quindi nasce in una cultura germanica europea negli Stati Uniti, una cosa molto tipica allora, perché come sapete l'America è un paese formato da emigrati europei in gran parte, e quindi questo ci lega ancora di più a Niebuhr, perché non solo nasce da una famiglia di origine europea, ma cresce in una cultura europea, e affronta quindi il suo rapporto con gli Stati Uniti da un punto di vista inizialmente europeo. Perché? Perché il padre era pastore di una chiesa evangelica. Niebuhr frequenta le prime scuole in scuole della sua chiesa in lingua tedesca, e quindi si forma nella prima giovinezza in questo clima culturale tedesco. Il suo primo impatto con la grande cultura americana sono gli anni di studio che compie nella università di Yale, a New Haven, e sono solo 2 anni in fondo di esperienza in questo grosso centro universitario. Poi dal 1915 al 1928 Niebuhr, ordinato pastore della sua chiesa, svolge per 13 anni un periodo di pastorato nella città di Detroit. Detroit era in quel momento una città in grande sviluppo industriale, per quella che poi diverrà nota in tutto il mondo come la Ford, e per altre industrie che si stavano sviluppando in quel momento. Momento di grande sviluppo industriale, con tutti i problemi che questo comportava: urbanizzazione veloce, rapida, senza le strutture adeguate, mancanza completa ancora di ogni forma di sindacalizzazione, quindi enormi problemi per i lavoratori, e la sua comunità, che crebbe enormemente negli anni in cui lui restò come pastore a Detroit, era formata di persone di un po' di tutte le classi, e naturalmente i problemi maggiori che lui incontrò erano i problemi che avevano i lavoratori, gli operai della Ford, che spesso passavano dei mesi senza lavoro, e naturalmente non esisteva vero nessuna forma di cassa integrazione o in cose simili. Cosa succede in questo periodo? In questo periodo questo giovane pastore, che era cresciuto nella cultura liberale e tedesca, teologica e filosofica, che aveva quindi visto il mondo fino a quel momento soprattutto dai banchi di scuola e attraverso i testi teologici, per la prima volta nella sua vita veramente si trova a confronto con una realtà di vita, di lavoro, e con una realtà particolarmente dura. E potete ben immaginare che fu una realtà sconvolgente per questo giovane, molto brillante, preparato negli studi, ma, come scriverà poi lui stesso nel suo diario, non preparato ad affrontare i problemi di ogni giorno. Ed ecco che incomincia lì, piano piano, a nascere in Niebuhr l'interesse per la politica. Cioè, nel momento in cui si rende conto, e lo scrive nel suo diario, che i sermoni che ogni domenica pronunciava dal pulpito della sua chiesa non cambiavano la situazione, non risolvevano i gravi problemi di molti dei suoi parrocchiani. Ed è lì che poco a poco Niebuhr incomincia a interessarsi, prima di problemi spiccioli, incomincia a visitare le case di queste persone, e poi va oltre, va a vedere cosa c'è a monte, incomincia a interessarsi della questione razziale, che era anche allora un problema molto grave, incomincia a interessarsi dei problemi sociali, fino a interessarsi dei problemi politici della città, e incomincia piano piano a vedere che tutto è collegato, cioè che Detroit non è un'isola a sé stante, ma fa parte di un sistema economico, e quindi incomincia a interessarsi anche di problemi più ampi, incomincia a interessarsi di problemi a livello nazionale. Incomincia a scrivere articoli su varie riviste su questi problemi, naturalmente da un punto di vista cristiano. Il suo tentativo è quello di conciliare la fede, la impostazione teologica che aveva ricevuto, con i gravi problemi del mondo del lavoro con cui si era venuto a scontrare. Dicevo, questa esperienza dura 13 anni ed è, potremmo dire, la prima fase della esperienza di Niebuhr sul rapporto fede e politica. Nel 1928 gli viene offerto un posto di insegnamento in un college, in una università, o diciamo meglio in un seminario teologico che già allora era molto, molto importante, Union Theological Seminary di New York, che sta proprio al centro di Manhattan, di fianco alla Columbia University e vicino al seminario ebraico. Questo seminario, che era un centro di studi religiosi ormai molto noto e che continuerà ad essere noto anche dopo, ad esempio Bonhoeffer ci passò 2 anni poi e che tuttora è un seminario molto importante, ecco, in questo seminario viene chiamato a insegnare etica cristiana. E di nuovo c'è una piccola, se vogliamo, grande crisi per questo giovane pastore, che si trova impreparato di fronte ad aule affollate da studenti che fanno domande a volte difficili. Si trova anche in una città molto diversa. New York era una città con una tradizione ed una vita molto più lunga, una città che aveva anche una tradizione politica che Detroit assolutamente non aveva. Cioè a New York si erano già formati sindacati, a New York c'erano già state formazioni politiche di diversa tendenza, molto attive. E per complicare ancora di più le cose, l'anno dopo, 1929, c'è l'inizio della grande crisi economica che porterà agli inizi degli anni 30 a una situazione disperata per milioni di cittadini americani e anche in altre parti del mondo, ma milioni di disoccupati, persone senza lavoro, senza pane in quasi tutti gli Stati Uniti. Niebuhr non può fare a meno di coinvolgersi, ormai il suo coinvolgimento con i problemi sociali all'esterno della Chiesa era durato 13 anni, anche se viene chiamato ad insegnare in un seminario, non resta dentro le mura del seminario, si coinvolge nei problemi della città e diventa sempre di più di sinistra. Gli anni 30, l'inizio degli anni 30 negli Stati Uniti sono un momento, dicevo prima, di grande crisi economica e contemporaneamente di un grosso spostamento degli intellettuali, soprattutto dei giovani intellettuali, verso sinistra. Molti vedono la fine del sistema in questa crisi, la fine del capitalismo, e vedono come unica speranza la possibilità di instaurare anche negli Stati Uniti un sistema di tipo socialista come nell'Unione Sovietica. Moltissimi vanno addirittura nell'Unione Sovietica, perché in quegli anni negli Stati Uniti esisteva ancora il mito dell'Unione Sovietica come paese in cui si erano risolti i gravi problemi che allora coinvolgevano gli Stati Uniti. E questo periodo dura direi nella prima metà degli anni 30. E Niebuhr ne viene coinvolto, diventa membro del Partito Socialista e un membro attivo del Partito Socialista, voterà in 2 elezioni nel 32 e nel 36 per il candidato socialista alle elezioni presidenziali, Norman Thomas, che poi era anche lui un ex pastore evangelico, pastore della Chiesa presbiteriana. Si coinvolge in altri gruppi locali e più ampi e fonda un'associazione che si chiamava Fellowship of Socialist Christians, Associazione di Socialisti Cristiani. Leggendo la rivista di questa associazione e leggendo quello che scrivevano allora, ci si accorge come la teologia della liberazione e l'incontro tra marxismo e cristianesimo nell'America Latina degli anni 60 non è niente di nuovo, anche se è stato presentato come una cosa nuova. Ci sono moltissime somiglianze. Evidentemente in periodi di crisi economica o di crisi politica vengono cercate delle situazioni, delle soluzioni di emergenza. Quella era una crisi, era un momento di enorme crisi, viene cercata questa soluzione di emergenza. Niebuhr e i suoi amici credono di trovarla nel marxismo. Questa fase dura alcuni anni. Poi succedono alcune cose che io molto in breve elenco. Prima di tutto Niebuhr era uno che teneva sempre d'occhio la situazione reale dei fatti, cioè non leggeva tanto libri, ma leggeva molti giornali e parlava molto con la gente. E incominciano ad arrivare dall'Unione Sovietica notizie di processi e di purghe staliniane. Compie alcuni viaggi nell'Unione Sovietica e per lui immediatamente il mito dell'Unione Sovietica, seppur lo aveva avuto in certa misura, finisce. E quando per lui finisce il mito dell'Unione Sovietica, finisce anche l'interesse, direi, per il marxismo come teoria, perché a Niebuhr interessavano vedere le cose realizzate. Contemporaneamente la situazione economica negli Stati Uniti riprende con Roosevelt, col famoso New Deal e tutto quello che ha voluto dire, tentativi di corporativismo, alleanza tra governo e forze sociali. Niebuhr incomincia a guardare un po' meno negativamente al presidente Roosevelt, che fino al 36 aveva giudicato molto male. Terzo elemento che modifica la posizione sua è quello che avviene in Germania. Niebuhr ormai è americano al 100%, ma ha sangue tedesco nelle vene e non lo dimenticherà mai per tutta la sua vita. Tiene sempre d'occhio quello che avviene in Germania. In Germania sta montando il nazismo. Niebuhr è preoccupatissimo per quello che sta succedendo e vuole che gli Stati Uniti prendano una posizione. Niebuhr prevede, molti anni prima di tanti altri, che si arriverà ad una guerra e incomincia su questo a prendere le distanze dal Partito Socialista americano, che aveva mantenuto sempre una posizione di pacifismo intransigente. Finché, al momento in cui gli Stati Uniti decideranno di entrare in guerra, Niebuhr distaccherà dal Partito Socialista formalmente sulla questione dell'intervento, perché non condivideva la posizione del partito. Ma ormai Niebuhr è su una strada diversa, è sulla strada del coinvolgimento con il governo, con l'amministrazione Roosevelt. Gli incomincia a piacere molto di più sia la politica interna che la politica estera di Roosevelt. Si dà un grande affare tra le chiese, fondando un giornale per convincere gli americani della necessità a intervenire nel conflitto in Europa, e incomincia a collaborare col governo, cioè viene invitato a far parte di missioni che visitano durante lo svolgimento della guerra poi le truppe americane all'estero, incomincia a fare parte di commissioni che valutano le varie situazioni, finché alla fine della guerra lo ritroviamo addirittura come consigliere del Dipartimento di Stato. e gli sarà affidato insieme a un gruppo ristretto il compito di programmare la ricostruzione, soprattutto dal punto di vista culturale, del sistema scolastico universitario della Germania. Quindi nel giro di brevi anni, ma molto intensi, Niebuhr compie una parabola religiosa e politica molto lunga, che non abbiamo il tempo di esaminare a fondo in pochi momenti. Il suo itinerario continuerà poi ancora per molti anni, e lo vedremo impegnato durante il periodo della Guerra Fredda, lo vedremo impegnato poi fino alla fine dei suoi giorni, fino alla sua morte avvenuta nel 1971. E concludo dicendo che l'esperienza di Niebuhr è un'esperienza che può essere importante anche per noi, non tanto per ricopiare dei modelli che non sono ricopiabili perché erano collegati a situazioni lontane da noi, ma per l'impegno e l'intensità che quest'uomo ha sempre messo nell'affrontare i problemi del suo tempo e soprattutto come credente per rendere la fede rilevante all'uomo del suo tempo, dentro e fuori dalle chiese. Uno dei complimenti credo maggiori che gli sono stati fatti da uomini politici americani è stato quello di avere fatto ascoltare la voce dell'Evangelo fuori dalle chiese. E questo credo che non sia qualcosa da poco per un cristiano. Vi ringrazio e passo la parola a Zorzi. Io vorrei dire una parola di ringraziamento al professor Ruboli per questa lucida ed equilibrata inquadratura storica che ci ha fatto presente l'oggetto d'attenzione, vero, dello studio ulteriore, uno sguardo su quell'America religiosa che per noi è così difficilmente abbordabile in generale. L'ultimo discorso su questo ideale di rendere la fede rilevante per l'uomo del nostro tempo, dentro e fuori la Chiesa, mi pare che ci siamo abbastanza bene nello spirito del nostro istituto. È che appunto senza legarsi a priori a un confessionalismo, però è sommamente interessato all'intera problematica religiosa. Ecco, detto questo, adesso passo subito la parola al nostro dottor Zorzi, vero, che darà la sua testimonianza sulla sua riflessione e sul suo libro, vero, in merito a quest'autore. Ringrazio il professor Ruboli per aver offerto una prima presentazione chiara e lucida di Raymond Niebuhr, inserendolo in una prospettiva storica e politica. Così facendo, egli mi consente ora di affrontare, senza ulteriori premesse introduttive, il pensiero più propriamente filosofico dell'autore americano. Trovarmi qui questa sera è per me motivo di duplice gioia, anzitutto la gioia di chi per lavoro vive lontano dalla propria terra e ritornandovi scorge attorno a sé un'atmosfera e dei volti familiari. Quindi il piacere di presentare al pubblico di Trento le linee essenziali del pensiero di un autore americano poco conosciuto in Italia, ma che a mio avviso merita tutta la nostra considerazione. Il pensiero di Raymond Niebuhr conserva ancora oggi, all'orizzonte di questa fine di secolo, una grande attualità. Io oggi parlerò appunto degli spunti più stimolanti del suo pensiero per l'uomo contemporaneo. Naturalmente si potrebbero aggiungere anche i limiti e gli aspetti in parte contraddittori delle sue riflessioni. Ciò però richiederebbe un approfondimento della conoscenza dell'autore che in questa sede non mi è possibile. Dovendo infine per esigenze di tempo operare una sintesi del suo pensiero, mi riferirò essenzialmente all'età matura di Orazio Nonnicoro, poiché in essa si condensano e si esprimono più compiutamente riflessioni che l'autore elaborò via via nel corso di tutta la sua vita, nella ricerca costante di un autentico realismo cristiano. La mia relazione si suddivide in tre parti. Nella prima parte intendo considerare la posizione di Nonnicoro di fronte all'epoca moderna. Questa mia riflessione sul realismo cristiano dell'ultimo Nonnicoro intende muovere da una constatazione assai frequente negli scritti del pensatore americano. Mano a mano che il secolo XX procede verso la sua fine, argomenta Nonnicoro, si fa sempre più drammatico nel mondo occidentale il contrasto tra la crisi spirituale dell'uomo di oggi e lo slancio creativo con il quale egli varcò ottimista la soglia della storia moderna. In realtà, osserva l'autore, noi oggi ci troviamo di fronte ad un punto di svolta epocale per l'umanità. Nonnicoro non sa dire dove tale svolta condurrà, ma di una cosa si dichiara certo. Se si vuole giungere ad una prospettiva feconda per il futuro, è indispensabile meditare seriamente sui limiti e sulle conseguenze storiche di quella grande rivoluzione culturale che fu l'Illuminismo. Nonnicoro propone di ripercorrere criticamente la storia della cultura moderna, muovendo da certi eccessi interpretativi, da certe promesse mai realizzate dall'Illuminismo. Questo, si badi bene, non per negare in toto ogni validità alla storia intellettuale e alle conquiste materiali della umanità dal Settecento ai giorni nostri. Il punto in questione, per Nonnicoro, è un altro. Ogni epoca è naturalmente caratterizzata da una particolare interpretazione dell'uomo e della storia. Quando però tale interpretazione diventa tanto potente da disconoscere i limiti della natura e del destino umano, si generano lentamente le prime contraddizioni insanabili. Ebbene, l'epoca attuale è divenuta teatro di contraddizioni così gravi da prefigurarne, secondo Nonnicoro, il collasso in tempi piuttosto brevi. Bisogna riconoscere, sostiene Nonnicoro, che i sogni superbi che misero le ali all'uomo dell'Illuminismo sono a poco crollati, lasciando dietro di sé un grande vuoto di valori. Che cosa rimane oggi della promessa illuministica di un progresso indefinito della umanità in tutti i campi, in nome della scienza con la maiuscola? Orazio Nonnicoro inizia una delle sue maggiori opere con le parole seguenti, mi riferisco a Fede Storia. Sarebbe stato comunque difficile per le generazioni del XX secolo, scrive Nonnicoro, tenere testa agli avvenimenti e far fronte alle perplessità della nostra età in tante occasioni, dal momento che ogni problema dell'esistenza umana ha acquistato un orizzonte ben più vasto di quello conosciuto nelle età precedenti. Ma le nostre perplessità sono divenute tanto più insolubili ed i pericoli ai quali eravamo esposti sono diventati tanto più gravi, in quanto gli uomini di questa generazione hanno dovuto far fronte alle difficoltà della vita nel XX secolo, provvisti di null'altro se non delle dolci illusioni dei due secoli precedenti per coprire la loro nudità spirituale. Nulla c'era nelle fedi e nei dogmi di questi secoli che potesse mettere l'uomo moderno in grado di prevedere o di comprendere la vera natura dei terrori e dei tumulti ai quali sarebbe stato esposto. Tra i casi che la storia dell'umanità presenta, nessuno è pieno di ironia quanto il contrasto tra le fiduciose speranze dei secoli passati e le amare esperienze dell'uomo contemporaneo. Ogni progresso storico, considerato dalle generazioni precedenti come un'anticipazione o come una garanzia della redenzione dell'umanità dalle sue varie difficoltà, si è rivelato causa, o perlomeno occasione, di una nuova forma di antiche perplessità. Secondo l'autore, sul terreno preparato soprattutto dall'illuminismo, si è lentamente affermata nella cultura moderna la convinzione che la scienza possa portare alla costruzione di un ordine sociale razionale, in grado di risolvere gli interrogativi della persona e della collettività. Questa idea di poter conoscere ed ordinare scientificamente la vita individuale e sociale diventa un vero e proprio leitmotiv della cultura moderna, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e la conseguente divisione del mondo in due aree di influenza, rispettivamente americana e russa. E ovviamente si tratta di una idea che si è adattata allo spirito e alle esigenze nazionali dei diversi popoli che l'hanno recepita. È però molto significativo, scrive Nipo, che la si trovi oggi un po' dovunque, profondamente radicata, paradossalmente, nel mondo comunista come in quello liberale. In vero, Niebuhr riconosce che la libertà di pensiero si è affermata in Occidente in misura maggiore di quanto non sia avvenuto nei paesi dell'Est. Il nota però anche che la tendenza del sapere scientifico ad abbandonare il proprio specifico campo di ricerca per divenire scientismo è riscontrabile tanto nella cultura liberale come in quella marxista. Ora, il processo di disumanizzazione provocato dal culto superstizioso eccessivo della ragione scientifica si è reso poi ancora più drammatico a causa del pericoloso connubio realizzatosi sia all'est che all'ovest tra scienza e potere politico, economico e militare. L'esito di tutto ciò è visibile nei molti miti e nelle molte pretese che pervadono l'epoca attuale. La cultura liberale, al pari di quella marxista, si dice in fondo continuatrice dell'illuminismo. Ambedue presumono di essere obiettive, neutrali, al punto di poter rivaleggiare con le scienze della natura. Negano che l'uomo sia peccatore, pretendono come assoluto il diritto alla felicità, proclamano l'innocenza del proprio sistema sociale che giudicano il solo realmente libero, rivendicano, infine, un uso razionale del potere per assicurare una duratura armonia sociale ed una illimitata crescita economica. Niebuhr ritiene che mai nella storia potrà essere un luogo in cui regnano insieme la felicità, la prosperità e la virtù. A tale possibilità hanno creduto il volontarismo, l'intellettualismo e l'ottimismo dell'uomo moderno. Tutto questo rientra però in una visione perfettistica della realtà, che fatalmente finisce per sottomettersi alle tendenze accentratrici e manipolatrici di ogni sistema sociale. La storia ha smentito con ironia le pretese dell'uomo moderno. Niebuhr scrive ancora circa 20 anni fa: abbiamo sognato un assestamento puramente razionale degli interessi nella società umana e siamo stati coinvolti in guerre totali. Abbiamo sognato un approccio scientifico ad ogni problema umano e ci accorgiamo ora che le tensioni di un conflitto di portata mondiale sollevano emozioni individuali e collettive che non sottostanno facilmente ad un controllo razionale. Abbiamo sperato di operare una netta e precisa distinzione tra giustizia ed ingiustizia e scopriamo che persino le migliori azioni umane contengono una certa misura di colpa. Tutte queste considerazioni sugli esiti radicali e scettici della nostra epoca non portano tuttavia Niebuhr ad un sentimento panico della precarietà storica. Giunto a questo punto della propria indagine, l'autore si chiede piuttosto in che modo sia possibile superare l'idealismo astratto proprio di buona parte della cultura moderna, senza cadere naturalmente nella rassegnazione o, peggio ancora, in un realismo cinico. E vengo alla seconda parte della mia relazione, nella quale io considero appunto la proposta di Niebuhr da un punto di vista, diciamo, più teorico. Nella terza parte, invece, la considererò più da un punto di vista pratico. Sullo sfondo di questo interrogativo, Niebuhr sviluppa il proprio pensiero nel modo seguente. I filosofi e gli scienziati moderni pretendono spesso di comprendere scientificamente troppe cose: la vita personale, la storia, la società, la giustizia e così via. Sfugge, tuttavia, a tanti intellettuali di grido, qualche cosa che scorge invece in maniera significativa la persona di buon senso, attraverso la lezione del tempo. Di fronte a molte idee avvertite come astrazioni, l'uomo di buon senso reagisce, richiamandosi anzitutto alla propria sensibilità morale e all'esperienza di vita. Su queste due basi si fonda la sua generale credibilità. Ora, prosegue Niebuhr, se si vuole dare alla cultura futura un fondamento realistico, è necessario un momento che rifletta attentamente su questo genuino atteggiamento di vita e di fondo della persona di buon senso, appunto, nei confronti della vita. E qui Niebuhr individua tre considerazioni fondamentali che, integrandosi reciprocamente, possono aiutare l'uomo moderno a orientare il proprio stile di vita. Primo, l'uomo deve assumere con coraggio il proprio destino di finitezza senza mai presumere di possedere la verità. Deve riconoscere la propria relatività, il che non significa, tuttavia, rinunciare a realizzare se stessi e la propria dignità. Secondo, i contenuti della riflessione umana guadagnano o perdono in qualità nella misura in cui essi si avvicinano o si distanziano dal senso concreto della vita. Molti sono stati gli umanesimi espressi dalla cultura umana, nessuno di essi può tuttavia ritenersi perfetto, obiettivo oppure neutrale. Terzo, il destino ed il senso dell'esistenza personale non si lasciano fondare su dei concetti, per quanto sublimi, su delle idee, ma si decidono di volta in volta nel momento delle piccole e delle grandi scelte quotidiane. Essi dipendono cioè, anzitutto, dalla faticosa e sempre incompiuta conquista di uno stile di vita personale qualificato, qualificante e quindi credibile. Ora, un simile stile di vita non può esaurirsi nell'analisi, tantomeno può venire dimostrato scientificamente. Nella sua interezza, esso può essere testimoniato solo nel presente, prima di tutto nella disponibilità al dialogo, come richiesto dalla stessa natura umana. È in questa prospettiva, più che le dottrine, punto di riferimento esterno per chi voglia vivere realisticamente la propria vita, saranno direttamente coloro che hanno testimoniato, oppure che testimoniano magistralmente, attraverso parole ed azioni, il senso ed il valore dell'esistenza umana. Illuminato dalla figura di queste figure esemplari, dalla vita di queste figure esemplari, ciascun uomo dovrà poi naturalmente cercare da sé i contenuti specifici e sempre relativi di ogni sua scelta. Da questi tre punti, che caratterizzano, per così dire, l'atteggiamento di fondo della persona di buon senso, Niebuhr conclude che alla base di un genuino buon senso vi è sempre una ricerca personale, aperta alle sollecitazioni del reale e nemica di ogni cieco dogmatismo. Ebbene, colui che accetta di camminare in questa direzione riconosce ben presto nella trama della propria vita una struttura originaria, fatta di dimensioni e di esperienze permanenti, coscienza, conoscenza, riflessione e diverse forme dell'agire. Questa struttura è propria di tutti gli uomini e porta ciascuno di fronte a due fondamentali possibilità. La prima è positiva e cerca di valorizzare la natura umana in tutta la sua dignità. La seconda è invece negativa. Essa deforma in vario modo la struttura naturale dell'uomo, disconoscendone la primaria vocazione al dialogo. Ora, in questa prospettiva, argomenta Niebuhr, la parola libertà assume un significato ben più profondo della interpretazione volontaristica e intellettualistica offerta prevalentemente dalla cultura moderna. Invero, il termine libertà non è un semplice dato dimostrabile o un puro diritto garante del patto sociale alla base di ogni democrazia. La libertà è anzitutto un'esperienza personale, vissuta, fondata sulla coscienza delle possibilità creative come di quelle distruttive dell'uomo. Essa implica la conquista di una qualificata sensibilità dialogica e dunque non si può risolvere in una crescita illimitata, senza criterio, delle conoscenze umane e nella logica del possedere per possedere ancora. Ma se le cose stanno in questi termini, argomenta Niebuhr, si possono scorgere numerose affinità tra il pensiero umano e la visione biblica cristiana. Infatti, la narrazione storico-drammatica della Bibbia coglie la compresenza di elementi creativi ed elementi egoistici nel comportamento di ogni uomo, fiuta gli inganni che si celano dietro le speranze di avvento di una società ideale. Non si illude che il pensiero umano possa ergersi a giudice obiettivo del divenire storico, accetta il carattere frammentario dei molteplici eventi e drammi che permeano la vita e la storia umana. In definitiva, secondo Niebuhr, nella Bibbia la rivelazione di Cristo non vanifica l'unica ricerca dell'uomo di buonsenso, ma la completa approfondendola e invitandola alla conversione nella libertà. Niebuhr scrive: l'interpretazione che la Bibbia dà della condizione umana è ironica, più che tragica o patetica, per il modo particolare con il quale considera il problema della libertà umana. Alla luce di tale interpretazione, l'uomo, per essere libero, non ha bisogno di sfidare eroicamente e tragicamente le forze della natura, neppure necessariamente coinvolto nel male a causa del suo rapporto con le necessità e le contingenze del mondo naturale. Il male nella storia umana è visto piuttosto come la conseguenza dell'impiego errato che l'uomo fa delle proprie particolari capacità. Ciò è sempre dovuto ad una certa sua incapacità a riconoscere i limiti delle proprie possibilità di potere, di saggezza, di virtù. L'uomo, conclude Niebuhr, è una creatura ironica, perché dimentica di non essere solo creatore, bensì anche creatura. Dispiace certo che Niebuhr, giunto a questo punto, non abbia saputo approfondire più sistematicamente i caratteri e le diverse possibilità di un realistico atteggiamento di vita. Dispiace anche che l'autore non si sia dedicato maggiormente a penetrare il rapporto fede-ragione, per accentuare invece il carattere ironico dell'esistenza e della storia degli uomini. In questa sede mi sembra comunque importante sottolineare l'attualità della intuizione centrale che sorregge il pensiero niburiano. L'uomo moderno si è spinto fino a credere di poter conoscere scientificamente la differenza tra il bene ed il male. Tradotta in termini politici, questa credenza ha significato spesso violenza e tirannia. Lentamente si è diffusa intanto la sensazione che con la fine di questo secolo si preparino fini diverse dal semplice voltar pagina di un calendario. Invero, Niebuhr non parla della fine del mondo, ipotizza piuttosto la fine di un mondo e di una cultura, esprimendo un giudizio negativo su molti valori dell'epoca attuale in quanto poco realistici. E vengo alla mia terza parte, la parte conclusiva, nella quale Niebuhr cerca di elaborare delle strategie, diciamo, da offrire all'uomo moderno. La trasformazione di modelli culturali che Niebuhr auspica indica la volontà di sostenere la linea del primato dell'essere sul conoscere e sull'avere. Egli è consapevole delle enormi difficoltà che la sua proposta filosofica trova in un contesto sociale fortemente condizionato dal potere politico ed economico. D'altra parte, Niebuhr non ritiene possibile neppure accettare la contraddizione di coloro che, dichiarando inaccettabili i modelli e le strutture occidentali, si appellano poi a ideologie rivoluzionarie che di fatto rimangono ben occidentali da un punto di vista culturale, quindi nel contesto di questa cultura moderna. La crisi che caratterizza la storia attuale, afferma Niebuhr, non è superabile solo attraverso un rinnovamento politico. Tutti gli uomini di buona volontà sono oggi chiamati ad incontrarsi per creare una nuova mentalità, atta a trasformare molti dei valori radicati nella cultura moderna. Per tale cambiamento di mentalità, Niebuhr ritiene essenziale l'assunzione di tre tesi fondamentali. E vengo brevemente alla prima. La frontiera della cultura occidentale non deve essere rappresentata dalle ideologie o dallo sviluppo scientifico, bensì dalla coscienza. Questa deve essere espressione qualificante di una sensibilità personale orientata al dialogo. Il primato della coscienza implica la consapevolezza della dignità e al tempo stesso della miseria dell'uomo. Comporta un deciso recupero del principio di responsabilità personale contro la pretesa tanto diffusa di scaricare ogni dovere morale nella ambigua sfera della cosiddetta società. Il dovere morale di testimoniare va accolto realisticamente per quello che è, una via lunga e dolorosa che certamente può avere un positivo effetto valanga, ma che non sottrae il testimone al suo naturale destino di finitezza, alla forza devastatrice degli egoismi personali e collettivi e alle insidie spesso mortali della violenza. B. Come seconda tesi, Niebuhr sostiene l'idea che la politica non possa più pretendere di diventare scienza. L'azione politica non è in grado di eliminare quanto di imperfetto, di relativo e di empirico è presente in ogni azione umana. Non ci si può accostare alla politica come ci si accosta alle scienze naturali, poiché l'azione politica richiede forza morale ed esperienza, esige capacità personali di fronte a situazioni sempre diverse e viene appresa solo se non ci si illude di arrivare a dominare gli eventi. Il richiamo ad una dimensione realistica della politica significa inoltre, per Niebuhr, accettare che la coscienza personale illumini sì la sfera sociale, ma non pretende di occuparla. L'appello alla moralità delle intenzioni e la dichiarazione dei valori devono essere cioè accompagnati dalla scelta dei mezzi di volta in volta più adatti a misurarsi con la realtà presente per una maggiore giustizia sociale. Ora, nonostante talune tendenze involutive, la filosofia politica dell'ultimo Niebuhr ha certo un merito, quello di evidenziare gli ostacoli, le difficoltà, le deviazioni presenti nella realtà sociale e spesso non riconosciuti dalla ragione astratta di tanti moralisti e di tanti rivoluzionari. A questo proposito, Niebuhr nota come alla base dei regimi democratici occidentali vi siano forme di coesione etnica, linguistica e culturale sviluppatesi molto tempo prima della instaurazione di un governo democratico. Lo sviluppo sociale, storico e politico delle democrazie occidentali indica come solo in virtù di un certo equilibrio di poteri e in seguito ad una lenta maturazione delle cose sia stato possibile pervenire ad un sufficiente grado di libertà. La storia stessa, scrive Niebuhr, dimostra che i governi democratici traggono il loro potere per un verso dal prestigio fondato sulla reciproca fiducia dei cittadini e sulla presenza di fattori organici quali una certa comunanza di storia, di cultura, di linguaggio e di destino. Per un altro verso, essi derivano la loro autorità, seppur in misura minore, anche dalla forza, vale a dire dalla capacità coercitiva. In questo senso, gli strumenti costituzionali, questo è molto attuale, possono soltanto perfezionare ciò che lenti processi di comune esperienza hanno formato. Non esistono per Niebuhr soluzioni preconfezionate, capaci di dare all'autorità del governo sicure indicazioni per il raggiungimento della giustizia. Le circostanze contingenti della storia determinano di volta il grado di precedenza da assegnare ai principi regolativi della giustizia, e cioè alla libertà e alla uguaglianza. E vengo alla terza ed ultima tesi. La terza tesi è strettamente legata alle due precedenti. Essa sostiene la necessità di superare ogni concezione perfettistica della vita umana. Sensibilità morale, conoscenza scientifica, riflessione ed azione si coniugano sempre insieme nell'esistenza. Non possono tuttavia essere strumentalmente confuse l'una con l'altra. Tutti gli uomini di buona volontà sono chiamati ad operare con coraggio ed umiltà, ma anche a farsi carico dei risultati che derivano da ogni loro azione. Questo è un dovere morale, dice Niebuhr, anche se non basta a distogliere dalla vita personale i contrasti, le incongruenze e i drammi. Il divario esistente dovunque tra gli obiettivi che gli uomini si propongono e i risultati da essi raggiunti non è mai annullabile del tutto. Certo, nella società moderna questo divario si manifesta aggravato dai complessi meccanismi esistenti che vanno trasformati, ma nella sua dimensione più profonda esso, questo divario, è l'ultima, il dramma di tutta la storia umana. La storia dei giusti non è lineare e semplice come spesso ha immaginato l'uomo moderno. Il più delle volte non lo è neppure la vita dei potenti. Con questa consapevolezza, Niebuhr giunge alla fine del suo cammino intellettuale e prospetta all'uomo realista la possibilità di aprirsi alla verità rivelata da Cristo, padre di tutti gli uomini, né conservatore né progressista. Egli è il principio della coscienza che dialoga e che prega, ma è anche, non dimentichiamolo, principio e criterio della coscienza che riconosce le proprie mancanze e che sa perdonare. A nessuno è concesso di lasciarsi vivere sconsolato senza la responsabilità di un impegno attivo nella collettività, ma a nessuno è concesso anche di semplificare strumentalmente il corso della vita. Concludendo, come un canto di Natania, la vita esige da un uomo grande sensibilità ed impegno responsabile, una disponibilità alla coralità che si forma anzitutto dall'una lettura di spartiti diversi. Io concluso, ringrazio le autorità qui presenti, ringrazio il pubblico che ha avuto la pazienza di seguirmi e ovviamente ringrazio anche mia moglie che in questi 2-3 anni di permanenza in Germania è stata a me particolarmente vicina. Sono le 7:15, ma se c'è qualcheduno che gradisce porre qualche domanda all'uno o all'altro dei relatori, forse un 10 minuti li abbiamo a disposizione ancora, altrimenti faccio un brevissimo ringraziamento di conclusione, quindi pregherei subito, casomai, vero, di annunciarsi. Se nessuno interviene, ecco, a me resta solo da dire una parola di ringraziamento a tutti, perché ho seguito con ammirazione anche l'attenzione con cui è stato ascoltato anche quest'ultimo intervento, che ecco, a me è sembrato molto concentrato. Il libro è più accessibile per il profano, ecco, vorrei dire solo questo. Non, certo è un pregio anche la concentrazione, perché soprattutto per il tempo che dovevamo utilizzare. Ma aggiungo, riguardando e ripensando tutti i momenti di questo nostro incontro, ecco che ci siamo fermati molto sulle cose, il sapore dell'attenzione è stato molto oggettivo, è molto severo, vero? Io stesso mi sono tenuto molto, molto contenuto nel primo intervento. Sento a questo punto quasi il bisogno di indulgere un pochino di più anche al sapore delle persone, vero, sia dei due borsisti precedenti, del professor Zuccale Nicoletti, sia anche del nostro caro Beppe, vero, che in questo periodo sono veramente stati vicini all'istituto in una maniera non indifferente e non spersonalizzata. Mi parerebbe di indulgere ad una concezione perfettistica della vita se non lo dicessi. E per conferma ho qui qualche frase di una lettera del professor Seckler, che proprio a proposito del nostro caro dottor Zorzi mi scriveva dandomi ufficiale testimonianza un anno fa circa, dove dice che Zorzi ha incontrato einen außergewöhnlich angenehmen Menschen kennengelernt haben, un uomo straordinariamente amabile che con grande serietà e dedizione porta avanti i suoi studi. Nel periodo della sua permanenza a Tubinga ha regolarmente visitato le mie lezioni, eccetera. La sua partecipazione, seine Teilnahme bedeutete eine sehr erfreuliche Bereicherung. Per un uomo che pesa le parole come Seckler, mi pare una testimonianza che non ho voluto trattenere nel mio cuore, ma che sento il bisogno anche di comunicare a questo punto. E accanto a questo veramente devo anch'io dire dulcis in fundo, perché ecco, mi sono andato accorgendo lentamente, ma ho avuto la conferma la settimana scorsa in quel interessantissimo incontro che c'è stato qui in questa sala su Schleiermacher, in un incontro di filosofi tedeschi e italiani. Ecco, mi sono accorto in quell'occasione quanto la giovane signora Zorzi, stando a Tubinga, non si è limitata solo a preparare il pranzo e la cena per il marito, ma certamente ha ascoltato, almeno per il buco della chiave, tutto ciò che si diceva, si ragionava, si discuteva, imparando non solo, acquisendo non soltanto una pratica più spontanea dell'uso della lingua, ma una familiarità con questi concetti che insomma mi ha commosso, così dico la verità, perché non a tutte le consorti è consentito, neanche in partenza, di poter condividere così negli anni decisivi della formazione anche gli ideali della maturazione spirituale. Ecco, anche questo sono obbligato a dirlo per non fermarmi a uno stato di perfezionismo astratto, ecco, di pure categorie reali, e in questa luce di esprimere anche da parte mia e a nome vostro, se consentite, veramente al dottor Zorzi e anche alla signora Chiara, vero, veramente i migliori auguri di una ulteriore crescita e di una affermazione veramente corrispondente alle promesse e alle anticipi che ti hanno presentato. Grazie.